Luci blu sirene sul giornale, strade buie metropolitane. Tu dimmi se ti va di bere qualcosa, ti va di cambiare posa. Ma ora sai cosa c'è? C'è che tira un vento micidiale, la città un deserto in piena estate. Tu dimmi se comincia a farti qualcosa questa notte noiosa. Da sola che cosa c'è? Per vederci bene dentro uno specchio, con gli occhiali scuri è meglio. In questa camera d'albergo mi ci perdo, sdraiati sopra un letto va già meglio. E scorre più lento questo tempo, se parli più forte io non sento. C'è fuori e buio dentro, lo sai che la noia è un killer. Io sono il fucile, sai già dove sta quel punto in cui ti so colpire. Tu intanto scriva l'ultimo errore, che ci pensi da ore. Se altrove lì dove c'è una notte che non passa in eterno, con gli occhiali scuri è meglio. In questa camera d'albergo mi ci perdo, sdraiati sopra un letto va già meglio. E scorre più lento questo tempo, se parli più forte io non sento. È come un passo in più all'inferno con il freddo, se ci sdraiamo a letto va già meglio. E scorre più lento questo tempo, se parli più forte io non sento. C'è fuori e buio dentro, vestiti sul pavimento, di noi solo uno schermo. Metti giù che ora sto meglio. In questa camera d'albergo mi ci perdo, sdraiati sopra un letto va già meglio. E scorre più lento questo tempo, se parli più forte io non sento. È come un passo in più all'inferno con il freddo, se ci sdraiamo